Do la parola all'amico Prodi, vuoi intervenire ancora o no? Non so, se voi credete posso cominciare adesso se non siete stanchi. No. O facciamo un intervallo di 5 minuti? Facciamo un intervallo di 5 minuti, solo 5 minuti, ma solo 5 minuti. Perché sono il primo a disordire, penso, a me stesso, nell'esortazione che era stata fatta di contenere gli interventi nei 20 minuti. Ed è capito che stamattina, quando ho visto che c'era la possibilità di uno spazio vuoto lasciato dalla non presenza di Brandmüller, ho chiesto di anticipare la relazione perché è credo un po' più lunga. Quando dobbiamo essere su? Di qui si parte all'1:10, insomma, il pranzo lassù è all'1 ed è vicinissimo proprio perché ci sarà il pulmino come stamattina. Possiamo anche andare a piedi. A piedi che sarebbe meglio? Beh, io non prevedevo che venisse il sole, si può anche fare a piedi, 10 minuti a piedi, non prendendo il sole c'è pulmino che fa la navetta. Allora la discussione si fa dopo sulla tua relazione. Sì, la mia è inserita nell'oggi pomeriggio, ecco. Diciamo che viene anticipata solo per motivi pratici. Ha un significato solo inserita nel contesto di oggi. Io direi das profonda. E poi se pensiamo di saltare dei passi, se no poi mi interrompete, insomma, ecco, dovendo stare i 20 minuti ero disposto a tagliare, ovviamente, per starci. Adesso vediamo. In modo solo un po'. Ecco. Il tema di questo intervento era stato formulato, a dire il vero, nella speranza di poterlo discutere insieme a Iedin stesso, festeggiando il suo 80° compleanno, perché come molti di loro sanno, la genesi di questo incontro era un discorso fatto insieme con Alberigo per festeggiare l'80° compleanno. Ecco, poi dopo purtroppo non è stato così. Per poter avere soprattutto da lui chiarimenti e indicazioni. E quindi è abbastanza strano per me e per loro in un dialogo senza risposta, proprio nella misura in cui non credo di essere in possesso di convincimenti definitivi, ma sento solo il bisogno di confrontarmi con colui che insomma è il nostro maestro, il mio maestro, insomma, ecco, dal 1954, quando cominciai a prospettargli le ipotesi di ricerca e a ricevere da lui indicazioni fondamentali. Non troppo veloce. Scusate, ho paura di essere troppo lungo, ma non è buono. No, 40 minuti, ha un'ora di tempo per 20 minuti. Bene, la speranza di poter discutere con Iedin era quasi divenuta ansia dopo aver ricevuto da lui, pochi giorni prima della sua morte, l'estratto di un suo obeliscus. E come al solito lui a matita scriveva sempre il nome del destinatario dell'estratto, perché per risparmiare sulle spese postali anche ne mandava più copie nella stessa busta agli interessati, eccetera. E su Historisches Jahrbuch è una delle sue ultime pagine ed è per questo ancora più degna di attenzione, perché nella coscienza lucida che egli aveva del prossimo compimento della sua fatica, ogni parola acquista un peso specifico straordinario. Cioè man mano negli ultimi anni, chi lo sa benissimo, insomma, questo senso della morte, insomma, l'anno scorso che si dice responsum mortis abuimus, e citava San Paolo in una lettera, questa è fino alla lettera che ha scritto a Monsignor Roger il giorno prima, dicendo praticamente sto per andarmene, esist nichts leicht, ecco, per citare questa sua coscienza così tremenda, insomma, di questa. Ma proprio per questo dice, credo che sia abbastanza importante soffermarsi anche su questo. Dopo aver parlato a lungo dell'attività e delle pubblicazioni dell'Istituto Storico Italo-Germanico, in questa nota, rivelando l'attenzione e il grande affetto con cui ha sempre seguito questo istituto qua, egli si sofferma su un saggio che avevo pubblicato negli annali della rivista d'istituto, Storia Sacra e Controriforma, note sulle censure al commento di Carlo Sigonia su Pizzo Severo. Era un mio saggio apparso sugli annali della rivista. Iedin ribadisce la tesi, rielaborata anche nel suo Cardinal Caesar Baronius, che è apparso proprio contemporaneamente mentre io scrivevo questa cosetta, quindi non ho potuto tener conto del suo baronio se lui non ha potuto tener conto di quello che andavo a scrivere. Ribadisce la tesi che le preoccupazioni apologetiche e le repressioni esistenti dappertutto, dice lui, e non solo nella parte cattolica, hanno impedito la libera critica, ma non hanno potuto impedire, e di fatti non hanno impedito, lo sviluppo scientifico della storia della Chiesa, che proprio in sostiene con Baroni ha avuto la sua pagina fondamentale. E conclude così, ed in questo estratto: Die einseitige Verketzerung der sogenannten Gegenreformation ist traditionell in der liberalen Geschichtsfassung des 19. Jahrhunderts gewesen. Heute sollte man auch von ihren positiven Seiten Notiz nehmen. Ecco. Cioè, in pratica, Iedin mi dà una tirata d'orecchie, diciamo, ecco, mi dice, ma Prodi è ancora legato alla tradizione liberale ottocentesca della controriforma cattiva, Verketzerung, della riformazione, e invece non sta, insomma, ecco, non tiene conto che oggi le cose sono diverse. Ed è questa tirata d'orecchio, direi, che mi ha particolarmente colpito, insomma, e di cui mi sono permesso di parlare, insomma, ecco, qui in questo intervento. D'altra parte, solo pochi giorni prima ero stato attaccato abbastanza duramente in un'opera pubblicata in Italia da una studiosa di storia dell'arte figurativa del Cinquecento come più diediniano di Iedin, per aver tentato di assorbire nel concetto ambiguo di riforma cattolica la cruda realtà della controriforma. Questa autrice, un libro uscito dall'editore Rinaldi, dice: muovendo dalle tesi dello Iedin, Prodi le spinge alle estreme conseguenze, individuando anche nel campo delle arti figurative, eccetera, eccetera. Quindi mi capitava di essere sotto queste... fuoco incrociato. Sotto questo fuoco incrociato e non sto a... è un po' imbarazzante. Il problema che ora mi pongo, al di là del problema Sigonio-Baronio, a proposito del quale posso certamente ammettere di aver sottolineato sotto l'influsso delle fonti usate particolari aspetti anziché altri, su questo sono disposto a tutte le autocritiche, il problema che mi pongo è che nelle mie conclusioni io prendevo le mosse proprio dall'insegnamento metodologico di Iedin e di Cantimori per vedere nelle censure di Roma al Sigonio, e qui mi cito, chiedo scusa, ma per porre la base di una discussione che se no non si capirebbe, le mie parole erano di vedere in queste censure di Roma al Sigonio una testimonianza importante del passaggio che al suo pieno nel penultimo decennio del secolo, nella vita religiosa italiana, tra un ciclo in cui le tendenze al rinnovamento e alla repressione si scontrano e il ciclo storico in cui prevale in modo egemonico l'azione più intransigente, non soltanto repressiva, ma anche e soprattutto preventiva della controriforma. E io continuavo, sono la riforma cattolica e la controriforma che si affrontano tra di loro. Non è certamente uno scontro in campo aperto, come quello tra la Chiesa di Roma e i protestanti, uno scontro in campo aperto nel quale gli schieramenti sono nitidamente contrapposti, dominando tutta la scena europea. Sono queste, tra riforma cattolica e controriforma, sono invece tensioni che si manifestano all'interno stesso delle istituzioni, spesso all'interno stesso dei gruppi e degli uomini. Tensioni che non di meno vanno studiate nella loro specificità e non possono essere ridotte in un'ottica semplicemente eresiologica, cioè dicendo che tutti sono eretici e basta, se si vuole comprendere nella sua complessità la vita religiosa e civile della seconda metà del Cinquecento. Questa è la citazione, diciamo, che faceva oggetto di questa osservazione di Iedin. Mi si perdoni questa lunga citazione, che però nella mia intenzione non avrebbe voluto essere una citazione. Non avrebbe voluto essere una citazione, bensì una rilettura di verifica di fronte a Iedin stesso, come dicevo. Scrivendo queste parole, io sentivo infatti quanto grande fosse il debito mio e di molti che si sono affacciati come me in Italia agli studi di storia religiosa e civile del XVI secolo nel secondo dopoguerra. Proprio questa pagina che scrivevo era, credo, dominata da Iedin. È del 1946, come tutti sanno, e qui dico cose note, l'interrogativo divenuto uno dei più importanti apporti per il rinnovamento di questo settore di studi, Cattolische Reformation oder Gegenreformation, il suo libretto ben noto. È da notare appunto che in Italia è stato tradotto solo nel 57, ecco, però era già stato in qualche modo, era entrato nella cultura italiana immediatamente per la nota recensione di Cantimori sulla rivista Società. Con la proposta, anche qui mi limito alla citazione tra le pagine che si dovrebbero citare, la citazione essenziale, tanto per intenderci, di Edin nel suo libretto, la riforma cattolica è la riflessione su di sé attuata dalla Chiesa in ordine all'ideale di vita cattolica raggiungibile mediante un rinnovamento interno, la controriforma è l'attuazione della Chiesa nella lotta contro il protestantesimo. Cioè, lui definiva così grosso modo queste due realtà. È anche troppo nota appunto la presentazione che di questo volumetto fece agli intellettuali italiani sulla rivista Società Delio Cantimori, presentazione che ebbe una eco ben al di là della ristretta cerchia degli specialisti per diventare in Italia un avvenimento culturale. Non possiamo qui rileggere estesamente, come sarebbe necessario, nelle pagine di Edin nel commento di Cantimori, che non rinnega la tradizionale interpretazione crociana della Controriforma, ma aggiunge, Cantimori, si tratta di constatare, al di là della Controriforma come restaurazione cattolica e oltre quella, la riforma cattolica che non fu in funzione restauratrice o reazionaria, ma fu un movimento autonomo, vivo, profondo, positivo, quello che ci dà il clima intellettuale e morale in cui visse Michelangelo. Mi scuso di queste brevissime citazioni, bisognerebbe evidentemente leggere tutto, ma mi preme dare il senso della discussione. Sono cose note. Così Edin è entrato quasi di prepotenza nel panorama culturale italiano e nel primo grande bilancio elaborato nel dopoguerra, il libro 50 anni di vita intellettuale italiana, uscito nel 1950, si può dire che Edin è già un protagonista, insomma, ecco, sia nelle conclusioni di Federico Chabot, che non lo cita ma lo sottintende nel suo saggio sul Rinascimento, sia invece esplicitamente nel saggio di Maturi, per il quale con Edin la storiografia cattolica si è imposta alla discussione della storiografia laica italiana più scaltrita filologicamente e filosoficamente. Cioè, per Maturi, con Edin il cattolicesimo italiano era uscito da una situazione di minoranza, di minorità, ecco, rispetto alla cultura laica, solo con Edin. Per noi giovani studenti di storia, allora di formazione cattolica, interessati anche in modo acuto ai problemi della Chiesa contemporanea nell'ultimo decennio del pontificato di Pio XII, l'impostazione di Edin ha costituito in primo luogo una liberazione sul piano culturale e spirituale di un'enorme potenzialità. Cioè, non solo lo diceva Maturi, ma eravamo noi che ci sentivamo usciti da questa minorità. Non solo fine dell'apologetismo di maniera, ma ancor più la spinta alla ricerca all'interno del mondo cattolico del Cinquecento di una molteplicità di fermenti e di filoni, non succubi passivi di una restaurazione egemone, ma espressione di una pluralità di movimenti e di indirizzi non riconducibili necessariamente a posizioni ereticali. È facile capire la potenzialità di questa nuova impostazione, non rimasta certo una astratta definizione metodologica, ma concretata, prima e dopo la sua formulazione teorica, nella grande biografia di Girolamo Seripando e nel primo volume della storia del Concilio di Trento. Iniziarono così anni di lavoro che coinvolsero non soltanto i più giovani che si formavano allora, ma anche coloro che sulla sponda cattolica e sulla sponda laica trovavano in questi nuovi spazi aperti sia l'occasione di un rinnovamento scientifico, sia la possibilità di un confronto che superava di colpo, per il fatto stesso di esistere, vecchie paralizzanti steccate. Il punto centrale di questo sviluppo lo vedo biograficamente, soprattutto nel primo congresso di storia della Chiesa in Italia, tenuto a Bologna nel settembre del 1958, e i cui atti furono poi stampati sotto il titolo Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento. La partecipazione all'organizzazione di questo convegno, con tutti i limiti dovuti all'inesperienza ed anche alla presunzione giovanile, rimane nel ricordo una delle esperienze più esaltanti di imprese culturali. Le relazioni di Iedin, di Merseman, di Cantimori, di Dionisotti, eccetera, e soprattutto il loro dialogo continuo nel corso dei lavori e delle serate comuni, faceva veramente saltare le barriere di tanti ghetti sovrapposti. La storia generale, la storia della Chiesa, la storia della cultura, la impostazione clericale apologetica e quella fondata su un'ottica esclusivamente eresiologica. Si trattava però solo di un inizio, non della conclusione, di un processo di superamento. Questo ne eravamo abbastanza coscienti. Anche questo inizio, il quale non permeava che una piccola parte degli ambienti laici e cattolici, era proprio basato sul delicato equilibrio proposto da Iedin con la sua formulazione tra riforma cattolica e controriforma. Scriveva Mario Rosa nella sua rassegna di questo convegno, e mi sembra, come al solito, acuto e centrato, appare evidente, dice Mario Rosa, parlando del convegno, come gran parte della ricchezza della vita religiosa ed ecclesiastica del Cinquecento si imperni nella compresenza di questi due termini, nel loro intrecciarsi e contraddirsi ed equilibrarsi, o cedere talvolta l'uno di fronte all'altro, ma senza che il secondo, cioè appunto la riforma, la controriforma, almeno sino agli ultimi decenni del secolo, sovrasti il primo completamente. E questa era la citazione di Rosa nella sua rassegna sul convegno del 58. Il ricordo degli incontri e delle discussioni di Cantimori e di Iedin tra il fumo dei mezzi toscani non è certo una cosa che possa essere evocata sul piano dell'esposizione scientifica e si può certamente prestare a cadute di tipo sentimentale. Credo però che sia rigorosamente vero e almeno soggettivamente importante testimoniare ora che nella seconda metà degli anni 50 ci sentivamo, credo di parlare anche a nome di qualcun altro, legati senza lacerazione all'uno e all'altro maestro, ricavando soltanto ricchezze e non limitazioni dalle sottolineature diverse che dall'uno o dall'altro venivano espresse nell'indirizzare le nostre ricerche. Fu Cantimori che mi accompagnò materialmente a piedi nella primavera del 59 con il manoscritto nel suo borsone dall'editore che era dall'edizione di storia e letteratura, Don Giuseppe De Luca. Ecco, ma era un caso, perché Cantimori era a Roma, ecco, se no poteva essere Iedin, allo stesso modo, insomma, ecco, non c'era, in tutti i discorsi era certamente presente Iedin allo stesso modo. Del resto l'atmosfera di questi anni è percepibile facilmente, al di là delle reminiscenze personali, nelle lettere scritte da Cantimori per la rivista Itinerari e pubblicate postume nel 1967. In questi strani, nel libro Conversando di Storia, in questi strani ma interessantissimi monologhi, la storia della Chiesa è al centro del suo interesse di studioso di uomo. E bisogna, va bene, leggere anche qui tante pagine. Ma non in modo generico, bensì con il nome di Iedin ben chiaro come protagonista principale. Perché Iedin è il protagonista di Conversando di Storia, insomma, almeno di tutta la prima parte. E un'attenzione incredibile verso ciò che di nuovo stava nascendo nell'ambito degli studi sul Cinquecento religioso dal convegno di Bologna in poi. In questo quadro, e non estrapolando poche frasi, credo debbano essere lette le indicazioni di cautela date contemporaneamente dal Cantimori nelle sue prospettive di storia ereticale sull'abuso del concetto del termine di riforma cattolica nella misura in cui tende a sostituirsi al precedente concetto e termine di controriforma. Mi pare che ci siano veramente delle letture assolutamente unilaterali di un certo Cantimori, insomma. Ecco, come se nelle prospettive di storia ereticale polemizzasse con Iedin, quando negli stessi mesi, su Itinerari, invece il discorso ha tutta un'altra completezza maggiore, insomma. Polemizzava certo con quelli che volevano sostituire al termine controriforma il termine riforma cattolica, insomma, ecco. Ma non certo con Iedin. Proprio quando la celebrazione del centenario del Concilio di Trento, che in Trento stessa, nel 1963, sembrava aprire questi studi in Italia a prospettive internazionali, iniziava a mio avviso una regressione, dapprima non avvertita, poi man mano più manifesta, specialmente negli anni successivi, dopo la morte di Delio Cantimori nel 1966. Non nego che siano apparsi in quegli anni elementi di nuova vitalità, sotto l'influsso delle nuove metodologie della scuola delle Annales e di Lebrun. In questa direzione ci sono stati indubbiamente dei passi in avanti e notevole apertura proprio in un campo di indagine in cui l'accento posto sulla lunga durata, sulla storia delle strutture e delle mentalità collettive esaltava le possibilità offerte dal recupero di interesse per il mondo cattolico nel suo complesso, al di là della limitazione tradizionale alle punte gerarchiche da una parte o ereticali dall'altra. Resta il fatto che dopo questo promettente inizio e dopo le prime opere impegnate in questa direzione non si è avuto uno sviluppo degli studi sul Cinquecento religioso adeguato a queste premesse. Ho già cercato di porre in altra sede il problema generale di questa crisi che ha portato a un certo tipo di regressione complessiva, sia in direzione apologetico-ecclesiastica, sia in direzione laicistica rispetto alle prospettive aperte negli anni 50 da Iedin e Cantimore. Qui vorrei soltanto porre la domanda più specifica. Questa crisi, da un'altra parte io parlavo dei termini generali, cioè del connessione col Vaticano II, con la crisi del mondo cattolico, con una certa crisi anche dell'organizzazione storiografica italiana, eccetera. Adesso questi temi generali lasciamoli da parte. Ecco, io mi domando, questa crisi è stata determinata soltanto da fattori in qualche modo esterni, novità nel panorama storiografico generale, appunto situazione del mondo cattolico italiano, eccetera, oppure ha una sua radice interna nella crisi dello stesso binomio interpretativo iediniano? E questo è un po' il problema che pongo oggi. Il punto fermo di partenza per una discussione su questo problema può essere facilmente trovato nella completa rassegna antologica pubblicata da Camaiani nel 64. Camaiani è qui, potrebbe parlare lui, poi spero che parli. Nella conclusione di questa rassegna, Camaiani, secondo me questi anni sono proprio gli anni di questo crinale, insomma, ecco, nel 63-64. Camaiani affermava che l'intervento di Iedin aveva condizionato la ricerca storica negli ultimi anni e che qualsiasi discussione non poteva prescindere dalla sua impostazione. E dice Camaiani letteralmente, alcune sue conclusioni, come quella della necessità di ambedue i termini, riforma cattolica e controriforma, sono state giustamente considerate definitive. Altrettanto non si può dire della formula scelta per configurare i due concetti che negli storici più autorevoli continuano ad essere concepiti ora come tendenze parallele, ora come momenti successivi. Cioè questi due concetti come sono concepiti? Come tendenze parallele, riformatorie contro riforma o come momenti successivi? In Iedin l'accento veniva posto sulla continuità, quindi, della riforma cattolica, dai primi tentativi di autoriforma del 400 sino a tutto il 600. Ma con la chiara percezione del suo condizionamento da parte della riforma protestante, sia in senso positivo, cioè senza lo scossone della riforma non avrebbe potuto toccare i vertici della Chiesa, il movimento di riforma, sia in senso negativo per i limiti e condizionamenti derivanti dall'irrigidimento dei fronti contrapposti e dalla necessità della lotta antiprotestante. In Cantimori, invece, il ciclo della riforma cattolica era visto come esaurito nel corso del Cinquecento, di pari passo con l'affermarsi della controriforma come restaurazione disciplinare e la lotta antiprotestante. Cito ancora Camaiani, nell'ultima pagina di questa rassegna, tanto per lo Iedin che per il Cantimori si tratta insomma di un movimento unico con due aspetti, riforma cattolica e controriforma. La prima è prevalente all'inizio del Cinquecento, la seconda alla fine. Per tradurre questa realtà in categorie storiografiche, i due studiosi scelgono due diverse semplificazioni, sottolineando l'uno la compresenza, l'altro la prevalenza alterna dei due aspetti. Ma si tratta di schemi orientativi e chi li usa deve guardarsi dall'irrigidirli al di là delle intenzioni degli autori. E qui finisco la citazione di Camaiani. Si trattava, in questa sintesi di Camaiani, di un tentativo di compromesso a tutti i costi fra due posizioni diverse, oggettivamente non compatibili, oppure queste posizioni non erano davvero così distanti come sembrerebbe. Giustamente Camaiani riteneva necessaria una verifica delle formulazioni generali nella realtà concreta del Cinquecento religioso. modellando quindi due concetti a seconda dei risultati delle ricerche e non viceversa. E sottolineava due punti che già emergevano dalle ricerche stesse di Iedin. Un primo punto è che la riforma tridentina risulta un compromesso. Questo è molto importante, che si riallaccia all'ideale della riforma cattolica ma non ne rappresenta la realizzazione completa e organica. Un secondo punto è che i germi più vivi del mondo cattolico continuano a crescere e a fermentare anche in seguito quando sembrano sconfitti o sopraffatti dalle preoccupazioni restauratrici della controriforma. Proprio questi due punti mi sembra abbiano guidato le ricerche negli anni 60 e hanno trovato continua illuminazione negli scritti e nelle parole di Iedin. Molto spesso si è trattato di fare una storia di insuccessi e di sconfitte, ma insuccessi e sconfitte che hanno avuto nella realtà concreta delle persone, e qui ci sarebbe da parlare sulle indicazioni di Iedin circa la validità delle biografie, cioè non è solo il Seripanda, ecco, ma è un taglio proprio importante nella metodologia generale. E nella realtà concreta delle persone, ma non solo, dice una fecondità storica, insomma, di questi insuccessi, di queste sconfitte, una fecondità storica che ha lasciato nel corpo della Chiesa dell'età moderna un segno tale da non permettere di identificare questa tout court con la Chiesa della Controriforma, nonostante tutto. Ecco, è ancora valida questa radice interpretativa. Nel brano di un suo saggio, apparso postumo e posteriore quindi alla rassegna di Camaiani, e che ho già richiamato in altra sede, a proposito della necessità di usare con cautela i termini di evangelismo, riforma cattolica e controriforma, nella scansione cronologica del Cinquecento, Cantimori affermava anche, e qui cito, alcuni, chiamando riforma cattolica ogni moto o tendenza di rinnovamento e ravvivamento religioso entro la Chiesa cattolica, hanno chiamato col nome di controriforma tutta l'opera di riordinamento ecclesiastico dal 1542 e prima in poi. E per lo più si è trattato di studiosi di tradizione protestante o di ispirazione di tipo liberale. Altri vedono invece nell'opera del Concilio opera di riforma cattolica e chiamano controriforma solo il prevalere rigoroso delle correnti più intransigenti e più propense alle formulazioni monolitiche, al ritorno o all'avviamento a posizioni assolutistiche ed esclusive. E questa è la citazione di Cantimori dalla letteratura italiana garzante. Anche qui si potrebbero fare altre citazioni, ma volevo dire proprio queste due definizioni di riforma cattolica e controriforma, insomma, o l'interpretazione liberale tradizionale che vede tutto dentro la controriforma, o un'altra interpretazione che vede una controriforma, diciamo così, in senso stretto, come limitata agli aspetti intransigenti e assolutistici. Non ho difficoltà a riconoscermi più in questa seconda categoria che non in quella di tradizione protestante o liberale a cui faceva anche riferimento Iedin in questo Obeliscus. Non per il gusto di classificazioni superficiali, ma perché vorrei porre a Iedin, ricollegandomi alla sua obiezione citata appunto all'inizio di questo intervento, il quesito. L'uso del binomio riforma cattolica contro riforma non ci permette una maggiore libertà di movimento e quindi la restrizione del territorio della controriforma in ambiti molto più stretti, ma proprio per questo più facilmente identificabili? Se questo è vero, l'uso del termine controriforma diviene del tutto diverso da quello in auge nella storiografia tradizionale protestante o liberale, dal momento che il termine non è usato per comprendere tutta la realtà del mondo cattolico, ma per identificare uno degli aspetti, anche se destinato a diventare storicamente egemone alla fine di un lungo processo. Certo, così si corre il pericolo di demonizzare il concetto di controriforma, attribuendo ad esso tutte le caratteristiche negative e di esaltare nella riforma cattolica l'aspetto innovatore. ma l'analisi della dialettica di questi due momenti nella realtà concreta degli uomini e delle strutture può essere elemento sufficiente per evitare il pericolo di simili schematizzazioni. In un altro saggio di Cantimori, apparso pure postumo, anche l'acuirsi della riflessione su questi temi degli ultimi mesi di Cantimori sarebbe da studiare, questo saggio è molto celebre, Galileo e la crisi della controriforma, il tema è ripreso da un'altra angolatura molto interessante per la nostra discussione. Cantimori dice: mentre in campo protestante la varietà di posizioni e le tensioni sono sempre state evidenti e quindi anche la ricerca storiografica le ha sempre tenute presenti, in campo cattolico la presenza di divergenze, di contrasti e di lotte non è stata allo stesso modo né percepita né studiata. Cito Cantimori, dice: la conclusione del Concilio di Trento sembrò segnare, con molte riserve, il prevalere della riforma cattolica sulle tendenze più intransigenti e più dure. Quindi c'è questo, a me pare importantissimo, insomma, Cantimori che vede nel Concilio di Trento, in qualche modo sia pure con ombre, ma il prevalere della riforma cattolica. Ma fu cosa di pochi lustri, poi dice Cantimori. Queste premesse sembrano necessarie a chiarire, almeno per cenni, le origini, dice Cantimori, lontane della situazione culturale generale nella quale Galileo si trovò a vivere e ad operare. Le ragioni, che non si possono ricusare, per le quali, questo è un passo per me centralissimo, occorre distinguere le varie prospettive e per le quali non si possono trascurare, almeno parzialmente, gli studiosi che parlano di riforma cattolica, anche per il Concilio di Trento, considerato con tanta unilateralità come simbolo di controriforma dalla storiografia ottocentesca. Queste premesse, continua Cantimori, dovrebbero servire anche a spiegare o a chiarire come si possa accettare, limitandolo nel tempo, il termine di controriforma, anche se esso non si trova negli atti d'archivio del sessantennio che va dal 1580 al 1640 circa. Si può accettare il termine controriforma anche se non lo troviamo nelle fonti dell'epoca, perché esso può costituire insomma un denominatore comune per il certo variegato trionfo delle tendenze più consapevolmente retrive volte alla lotta armata di tutte le armi allora conosciute contro la riforma protestante o peste ereticale, come alla repressione durissima della riforma cattolica. Quindi Cantimori negli ultimissimi scritti, questo, un paio, proprio, questo saggio è rimasto incompleto alla sua morte, accettava appunto questa dialettica confermando la scansione cronologica che abbiamo visto. Quindi la seconda domanda che vorrei porre, dopo appunto la prima, sul fatto che la controriforma, come la usiamo in senso stretto, è diversa dalla controriforma come veniva usata dalla storiografia liberale e protestante. La seconda domanda che vorrei porre è quindi questa: ammettiamo o no la presenza di lotte e anche di repressione all'interno del mondo cattolico, sia pur in parallelo a ciò che si va verificando nel campo avversario con lo sviluppo di quella che è stata anche chiamata la controriforma protestante? Questo sarebbe un concetto poi da studiare, cioè se accanto alla controriforma cattolica esista e si esistì, come penso, ecco, anche una controriforma protestante. Ecco, e mi pare che questo possa aiutare il chiarimento di questi concetti. Il problema è certo quello di definire entrambi questi aspetti, di riforma cattolica e di controriforma, nella loro concretezza storica, come si diceva prima, le scansioni cronologiche e geografiche, e qui dobbiamo dire in questa sede una cosa che è ovvia, ma insomma che per l'Italia e per la Germania le scansioni cronologiche sono del tutto diverse, insomma, e quindi per evitare fraintendimenti bisogna che questo sia certamente chiaro, nel loro intreccio concreto di compresenza e di tensioni, senza considerare questi aspetti come realtà storiche a sé stante, ma dotate di consistenza propria, cioè guai se pensassimo che riforma cattolica e controriforma sono delle realtà a sé stante, sono due aspetti di questo tipo. Invece il considerare realtà a sé stanti sembra una tentazione riemersa nelle opere più recenti della storiografia italiana degli anni 70, anche da parte di alcuni studiosi che pur riconoscono formalmente il magistero di Cantimori, come Carlo Ginzburg e Giovanni Miccoli, nei saggi da loro scritti per la storia dell'editrice, storia d'Italia dell'editrice Einaudi. Per Ginzburg abbiamo da una parte un humus religioso popolare, quasi indifferenziato, e i circoscritti gruppi dei riformatori, dall'altra la controriforma, come soffocamento, cito letteralmente, di ogni manifestazione religiosa alternativa. Questa è ancora la visione che rispunta fuori, diciamo, nella storiografia che va per la maggiore, direi quasi ufficiale italiana, perché se non è Einaudi lo storiografo ufficiale d'Italia, in questi anni non so chi lo sia. Ecco, e dall'altra la controriforma appunto come soffocamento. Una controriforma cioè che si potrebbe definire senza tempo, come espressione immobile durante tutta la crisi del Cinquecento della repressione del potere. Nella stessa storia d'Italia, Einaudi, Miccoli intitola il suo paragrafo sul Concilio di Trento, in antitesi quasi letterale con l'espressione di Cantimori che ho riportato sopra, a me poi viene da sospettare che non a caso il saggio di Cantimori e invece quello sulla storia Garzanti sia stato espulso da il volumetto Cristianesimo e Religione e Umanesimo, ma insomma questa è tutta un'altra cosa. Ecco, e Miccoli dice tra l'altro il paragrafo, il titolo del paragrafo sul Concilio di Trento ha questo titolo: Concilio e repressione, due facce di una stessa medaglia. Quando Cantimori diceva il Concilio di Trento come ultimo frutto della riforma cattolica. E Miccoli va avanti e dice così: non si tratta di accostamenti astratti, cito, l'opera del Concilio non è assolutamente valutabile al di fuori di questo contesto generale di repressione dura e spietata. I massacri della Calabria sono un esempio vistoso ed eccezionale perché colpirono interi villaggi, ma ovunque il Tribunale dell'Inquisizione però con decisione, eccetera, eccetera. E poi ancora un'altra pagina, anche il Concilio e l'opera del Concilio, nonostante ogni sforzo di distinguere, precisare, sfumare, si muove inconfondibilmente e nella sostanza sotto questo segno. Non si trattò solo della linea che Roma vuole imprimere al Concilio e dell'interpretazione che tenacemente, anche dopo la sua conclusione, continua a dare di esso, riservando insieme a sé solo il diritto di interpretarne i decreti. Tale posto di priorità, riservato alla repressione e alla chiusura anticlericale, rifletteva molto di più che una volontà o un'aspirazione curiale, perché trovava preciso riscontro nel ruolo, nel significato oggettivo assunto dal Concilio. Quindi è chiarissimo, non c'è nulla in comune tra la posizione di Cantimori, diciamo, degli anni 60 e la posizione di Miccoli di alcuni anni dopo. Il binomio iediniano risulta così cancellato dalla più autorevole, almeno dalla più editorialmente accreditata, storiografia italiana degli anni 70 di parte laica. Un simile ripudio sembra essere avvenuto anche nella storiografia che potremmo identificare come di provenienza cattolica, anche se con una divaricazione abbastanza strana. Mentre da una parte rispunta da mille rivoli il vecchio schema apologetico che tende ad assorbire tutto nella riforma cattolica, magari con una modernizzazione puramente esterna del taglio metodologico, con aperture antropologiche o sociologiche, cioè delle belle vetrine ci sono, insomma, ecco. Da un'altra parte si accetta il ritorno della chiave interpretativa unica della controriforma con affermazioni sconcertanti come quella di Romeo De Maio, che a me lascia sempre veramente, la ripeto, l'ho già detta anche un'altra volta, ma inizia il suo volume Riforma e miti della Chiesa del Cinquecento, questo caro Monsignore, con la frase: la controriforma è la struttura intellettuale della Chiesa, perciò è anche il suo sistema giuridico e la sua prassi pastorale. E poi va avanti così, insomma, con altre citazioni che non sta a fare. E accusa Iedin esplicitamente, all'inizio di questo volume, alcune pagine dopo, De Maio, di aver prodotto equivoci, dice, sia pur fecondi, per il progresso delle interpretazioni storiche, perché in realtà, dice De Maio, non si può parlare di riforma cattolica. Sono tutte storie, ecco, la discussione può essere servita per approfondire, ecco, ma in realtà. Per me poi De Maio è un mistero, ma questo non è. Non rientra nella relazione. Insomma. Si tratta quindi di un tramonto della indicazione iediniana nell'orizzonte della storiografia italiana. Questo è il problema. È difficile dare una risposta. A parte il rispuntare dei vecchi steccati, delle apologie confessionali e delle diffidenze laiche, sembra che su di essi sia cresciuta una dicotomia di tipo vecchio e nuovo ad un tempo sulla quale ha posto recentemente l'attenzione Adriano Prosperi. Da una parte abbiamo una storia delle istituzioni e della pratica religiosa, collegata ai metodi di Lebrun e dell'Annale, che tende a vedere come unico oggetto di interesse la riforma tridentina. Dall'altro lo studio, dice Prosperi, qui praticamente faccio una sintesi, dall'altro lo studio di personalità o gruppi di eretici come staccati da ogni contesto sociale. Se poi l'ho deformato, è qui presente, quindi potrà chiarire. In questo quadro, che secondo me in questi ultimi anni è particolarmente visibile a occhio nudo, questa biforcazione, si tende a sottovalutare l'apporto di Hedin come di uno storico che privilegia invece l'aspetto istituzionale. E qui appunto è interessante una rassegna recente di Carla Russo in quella sua antologia sulla vita religiosa, dice Hedin è un tradizionalista, insomma, ecco, perché privilegia l'aspetto istituzionale e quindi è contrassegnato, dico tra virgolette, da un orientamento tradizionale e privo di un seppur elementare apporto delle scienze umane. Ecco, questo è il modo con cui Hedin viene, diciamo così, liquidato nelle ultime opere di sintesi sulla donna. Che si debba tener conto del rinnovamento metodologico più generale degli studi per una storia globale della Chiesa e della vita religiosa popolare mi sembra evidente, e concordo anche sulla scarsa sensibilità di Hedin per questo tipo di problemi. Ciò che non riesco a condividere è la svalutazione dell'aspetto istituzionale in cui si cade confondendo il senso dell'istituzione, che è indubbiamente una delle caratteristiche fondamentali dell'opera storiografica di Hedin, e che pure va inserita nel contesto del suo tempo, con mentalità di tipo tradizionale in campo teologico ed ecclesiologico. Cioè a me pare che bisogna veramente distinguere i due piani, insomma, ecco, perché cioè, il senso dell'istituzione è una cosa, una mentalità di tipo tradizionale è un'altra cosa, e non si può fare una semplice equivalenza. In realtà, e credo che le incertezze attuali lo mostrino già, lo sforzo dei prossimi anni, a mio parere, ecco, dovrà essere forse proprio quello di inserire tutti questi nuovi fermenti che sono saltati fuori nell'alveo di una solida storia delle istituzioni che ci permetta di congiungere e non di frammentare i problemi di storia religiosa nel quadro della storia generale. E Hedin, come storico di razza, aveva ereditato, in modo eminente dalla storiografia classica tedesca, la capacità di costruire sintesi che hanno il proprio perno sia in campo politico che in campo ecclesiale. Non vi spaventi questa profanazione, così, dopo i discorsi di stamattina, nella storia istituzionale, nella storia costituzionale. Insomma, per me il senso che va Hedin della storia delle istituzioni e della storia della Costituzione è una delle cose della Costituzione nel senso di appunto strutture portanti della società, insomma, è molto semplicemente. Ma per ritornare più specificatamente al binomio riforma cattolica contro riforma, io credo che sia ancora pericoloso sbarazzarcene, almeno per ora, sino a quando nuovi approfondimenti auspicati, ma non ancora raggiunti, potranno renderlo superfluo. Senza essere una formula magica, questo binomio impedisce, con il suo stesso dualismo di partenza e lasciando ampio spazio a diverse coloriture e anche a differenti interpretazioni, come appunto abbiamo visto anche in Cantimori, impedisce il ritorno a posizioni anguste ormai non riproponibili e consente di non sacrificare i progressi sino ad ora ottenuti o che dobbiamo raggiungere in futuro al confessionalismo o al distacco dal quadro della storia generale. Anche quest'ultima discussione con Hedin, da cui ho preso la partenza, interrotta dalla sua morte, mi spinge ancor più, in risposta alla sua obiezione, ad osservare, e questa sarebbe la mia risposta, che si tralascia la considerazione di uno dei termini, si rischia di cadere in gravi equivoci e incomprensioni. Cioè il problema è, appunto, ancora per me, riprendere il suo binomio contro lo stesso Hedin al limite, insomma. Ecco. Che poi la controriforma, intesa nel suo più ampio significato, come riforma cattolica contro riforma, cioè nel senso più ampio, non nel significato più ristretto, ma anche nel suo significato più ristretto, caratterizzato dal controllo dottrinale, dalla restaurazione disciplinare e dal centrismo romano. Che questa controriforma, larga o stretta, abbia avuto aspetti positivi e abbia profondamente inciso nel processo di modernizzazione della società europea dell'età moderna e che non sia assolutamente accettabile la vecchia equazione riforma uguale progresso, controriforma uguale reazione, è ora certamente innegabile, come testimoniano alcune indicazioni più recenti, anche ancora tutte da sviluppare e che solo marginalmente hanno interessato la storiografia italiana di questi anni. Ma questa valutazione positiva della controriforma è un aspetto che paradossalmente non interessava tanto Huberti e Dean, diffidente verso ogni interpretazione ritenuta troppo incline ai sociologismi di maniera, e tutto inteso invece, come è stato detto, nell'attenzione alla storia della Chiesa nel suo interno e dal suo interno. Ricordo più volte in questi ultimi anni di aver cercato di farlo discutere sul saggio di Reinhardt, Gegenreformation als Modernisierung, e non sono mai riuscito a farlo discutere, cioè rifiutava, ecco, cioè era un mondo in cui non... No, dopo poi sentiremo anche. Ed è qui invece, a mio avviso, che abbiamo il dovere di andare avanti, partendo dagli spazi che Edina ha aperto per estendere l'indagine dalla dinamica interna del binomio riforma cattolica e controriforma alle più generali interazioni che i nuovi panorami storiografici ci possono ora consentire di cogliere nel groviglio di radici da cui si è sviluppata la società moderna. Il tema scelto per l'ultimo seminario, da lui diretto presso il nostro istituto, il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, è quanto mai indicativo, dal mio punto di vista, per comprendere la sua eredità in un senso non limitato. Dopo la conclusione della sua storia del Concilio di Trento, una storia interna, anche se aperta ai fattori circostanti, egli sentiva il bisogno, la scelta non fu né casuale né affrettata, ma ben motivata anche in lunghi colloqui che avemmo, di considerare direttamente il Concilio di Trento come avvenimento politico. Nessuno, diceva nella sua introduzione, anche che è edita negli atti, penserebbe oggi in una società largamente secolarizzata di definire il Vaticano II crocevia della politica mondiale del XX secolo. Anche se pur oggi i concili non possono essere del tutto ignorati dalla grande politica. Se questa definizione è possibile per